TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Dopo la capitale europea, Gorizia e Nova Gorizia non saranno più le stesse. Il bilancio nel primo anniversario dall'inaugurazione. Ultima tappa regionale oggi per la fiaccola olimpica, partita dalla diga del Vajont verso Longarone in ricordo delle quasi 2000 vittime della frana del 1963. A Buia la celebrazione della giornata del sacrificio degli alpini, in primo piano il loro ruolo durante il terremoto di 50 anni fa. Inaugurati al Burlo i master per infermieri pediatrici, due i percorsi formativi specialistici proposti in infermieristica neonatale e pediatrica e in infermieristica per l'emergenza urgenza neonatale e pediatrica. Lo sport calcio, l'Udinese stasera in trasferta con il Verona, una delle squadre ultime in classifica. I bianconeri devono fare il risultato dopo un solo punto nelle due gare interne contro Pisa e Inter. Basket, Udine sfiora il successo a Brescia, ma la Leonessa si impone in volata per 83-80. In A2, impresa a Verona, Cividale batte gli scaligeri al supplementare 80-74. Ancora un cordiale buongiorno da parte di Daniele Lettige e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. 300 milioni di euro di fondi per eventi, investimenti a lungo termine sono arrivati a Gorizia e Nova Gorizia in questi anni. Finanziamenti legati direttamente o indirettamente a Go 2025. Dell'ascito della capitale europea della cultura si è parlato in una conferenza stampa questa mattina. Lo spazio Epica Nova Gorizia, a pochi metri dal confine italiano nell'area della stazione, è una delle eredità della capitale europea della cultura. 300 milioni di euro arrivati negli anni da fondi regionali, nazionali ed europei, direttamente o indirettamente legati a Go 2025, ripartiti in maniera equa tra le due città. La grande maggioranza dei finanziamenti è servita a realizzare nuove opere o a rimettere in sesto quelle già esistenti, come il caso dell'aeroporto Duca d'Aosta, che nei prossimi mesi ospiterà un primo grande concerto, una data zero di un artista non ancora reso pubblico. Le riflessioni del sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Nel momento in cui abbiamo un contenitore, io sono convinto che questo incentiverà, agevolerà il contenuto. Senza contenitore non c'è contenuto e adesso abbiamo grandi contenitori. Diversi gli eventi in programma o in via di definizione per il 2026. Si partirà l'8 febbraio, anniversario dell'inaugurazione di Go 2025, con mostre e laboratori al di qua e al di là del confine, proprio nel giorno del Carnevale goriziano. Non si guarda solo al 2026, ma agli anni a venire per capitalizzare al massimo quanto fatto nel 2025. Il sindaco di Nova Gorizia, Samo Turel. Stiamo pensando a una strategia di sviluppo almeno in un paio di punti che sia in comune anche nel futuro. E tramite il GECT stiamo lavorando anche sulla parte urbanistica. Di queste cose si parlerà nel Consiglio Comunale Congiunto Trasfrontaliero in una data ancora da definire. Intanto si ragiona sull'esempio che Gorizia e Nova Gorizia hanno dato al continente. Romina Coccina, direttrice del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale del Goriziano, il GECT. Dall'Europa ci chiamano per presentare la nostra buona prassi, quindi vuol dire che veramente non siamo più così piccoli e sconosciuti. E domani saremo al Consiglio d'Europa a Strasburgo proprio perché anche lì ci è stato chiesto di presentare la nostra esperienza, il nostro progetto, come ci siamo arrivati. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Ultima tappa regionale oggi per la fiaccola olimpica, partita dalla diga del Vajont verso Longarone in ricordo delle quasi 2000 vittime della frana del 1963. Si sono preparati con bandiere, con cartelloni e sì, siamo tutti felici. È un momento molto emozionante per i bambini. Sono le bambine e i bambini delle scuole arrivati con le loro piccole fiaccole più emozionati per la tappa numero 50 del viaggio della fiamma olimpica, partenza dalla diga del Vajont, dal comune friulano di Erto e Casso a Longarone, luoghi della memoria collettiva, per arrivare in serata a Cortina. Il sindaco di Erto e Casso, Antonio Carrara. Il Comitato Olimpico ha ritenuto questo posto degno di questa partenza. L'aveva già fatto nel 2006 con Torino, con le Olimpiadi Invernali di Torino, e l'ha ripetuto questa volta. Significa che questo posto è un posto di memoria, un posto da ricordare, è un posto da partire veramente con la fiaccola olimpica. Il sindaco di Longarone, Roberto Padrin. La fiamma olimpica rappresenta tantissimi valori, quelli dell'inclusione, della pace, ma anche della memoria. Oggi facciamo memoria ricordando le vittime del Vajont, con i nostri bambini, con le nostre associazioni, con una comunità che si stringe attorno a questa fiamma. 16 tedofori, tra loro atlete e atleti azzurri, olimpici da tutta Italia. Giorgio Triches è il primo a partire, presidente dell'Associazione Nazionale Atleti Azzurri Olimpici d'Italia della sezione di Belluno e Cortina d'Ampezzo. E essere il primo professionista in questa Bayont sulla diga, dove a noi ricorda purtroppo una brutta tragedia, è un bel segnale di speranza e di un futuro che sia con i valori dello sport a cui noi teniamo moltissimo. Daniele Molmenti è canoista friulano, oro olimpico a Londra 2012. Questa tappa è davvero importante e profonda, con un significato particolare, perché siamo in un posto di una tragedia dove i valori dello sport possono insegnare ed educare magari i futuri rappresentanti a vivere di più lo sport per essere persone migliori. Erto e Casso, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Oggi, 26 gennaio, ricorrono la giornata nazionale della memoria del sacrificio degli alpini e l'anniversario della battaglia di Nikolajevka. La sezione di Udine dell'Associazione Nazionale Alpini celebra la giornata a buia ricordando il fondamentale apporto degli alpini nel terremoto del 76. Due tragedie, quella della guerra e quella del terremoto, tenute insieme dai valori di solidarietà, sacrificio e responsabilità delle penne nere. A Buia le celebrazioni nazionali per la giornata della memoria del sacrificio degli alpini, istituita 4 anni fa dal Parlamento, aprono in maniera laica e collettiva gli eventi in ricordo del sisma che ha segnato un prima e un dopo per la storia del Friuli. Dietro la fanfara della Iulia, il labaro nazionale degli alpini fa il suo ingresso in uno dei paesi dopo Gemona più duramente segnati dal terremoto. 46 delle 990 vittime erano di Buia. Per chi ha avuto vittime, effettivamente quei 50 anni non sembrano mai passati. Poi la vita ha voluto che mio papà fosse anche di leva alla Goi Pantanali e quindi ogni anno ci ritroviamo tutti a ricordare questi ragazzi. In quei giorni eravamo veramente spaventati, terrorizzati. E gli alpini a Tarcento hanno fatto tanto. In quei giorni di paura e smarrimento gli alpini arrivarono per primi e andarono via per ultimi, ha ricordato commossa la sindaca Silvia Pezzetta. Al commissario Zamberletti, scomparve proprio un 26 di gennaio, Buia intitolerà la rinnovata aula del Consiglio Comunale. Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento. La lezione che il Friuli ha dato a tutta Italia è esemplare. Noi abbiamo ricostruito là dove era, come era prima e certe volte meglio di prima. L'abbiamo fatto in tempi record, senza scandali, senza ruberia. E questo è un grande orgoglio che ci unisce tutti. Tra i valori degli alpini è stato ribadito mettere sempre il noi prima dell'io. Sebastiano Favero, presidente nazionale dell'ANA. Il motto che tra l'altro abbiamo voluto proprio coniare per i ragazzi che vengono nei nostri campi scuola, far capire loro che quello che è importante è la solidarietà, il guardare l'altro con fiducia, il rispondere all'altro quando ha bisogno, sapendo che l'altro quando avrai bisogno tu ti risponderà allo stesso modo. Buia, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora la politica, con una polemica relativa alla sanità tutta interna al centrodestra regionale. Sanità, terreno di scontro politico e fin qui nessuna novità, ma lo scontro, cominciato con un confronto fra PD e centrodestra, sembra essersi spostato all'interno stesso dello schieramento che sostiene il presidente della regione Fedriga. La questione parte dall'istituzione, decisa dalla Lega già in luglio, di un tavolo tecnico sulla sanità. Il segretario regionale del Carroccio, il senatore Marco Dreosto, ne affidò il coordinamento ad Anna Maria Cisint, ex sindaca di Monfalcone, ora eurodeputata. Una scelta, quella del tavolo e quella di affidarne la guida a Cisint, che ha fatto dire alla segretaria del PD regionale Caterina Conti che Riccardi, assessore regionale alla sanità, è stato commissariato da Cisint. Davanti ai microfoni dei giornalisti ad una conferenza stampa al Burlo, la risposta di Riccardi. Ho letto che io sarei commissariato dall'onorevole Cisint. Ve la ricordate Giorgia Meloni quando ha risposto a Deborah Serracchiani dicendole che si sembrava possibile che lei fosse dietro gli uomini, ma mi pare che io possa essere commissariata da uno come Anna Cisint. La risposta di Anna Cisint è stata veloce. Nulla mi scalfisce, faccio politica per i cittadini, passo per le elezioni io. Sono stata eletta 2 volte sindaco di Monfalcone con maggioranze bulgare e sono stata eletta al Parlamento europeo. L'eurodeputata dice che il tavolo voluto da Dreosto si è riunito 10 volte, ha sentito professionisti, ha riscontrato apprezzamento per molto, ma ci sono dei punti da approfondire. Quali non lo dice perché il documento finale resta riservato. Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono stati inaugurati questa mattina al Burlo Garofalo di Trieste i master di primo livello per infermieri pediatrici per l'anno accademico 2025-2026, organizzati in collaborazione con l'Università di Trieste. Due i percorsi formativi specialistici proposti, diventati un punto di riferimento nazionale, quello in infermieristica neonatale e pediatrica e quello in infermieristica per l'emergenza-urgenza neonatale e pediatrica. Le attività didattiche, che includono lezioni, laboratori pratici e simulazioni avanzate, si avvalgono di un corpo docente di alto profilo, composto da accademici dell'Ateneo, esperti del Burlo e professionisti provenienti da realtà sanitarie nazionali e internazionali. I due corsi si propongono di formare infermieri specialisti capaci di affrontare le necessità di cura di neonati, bambini e adolescenti in contesti ospedalieri e comunitari e di far acquisire ai partecipanti competenze per la gestione di emergenze neonatali e pediatriche. Il nucleo antisofisticazione dei Carabinieri di Udine ha controllato nel 2025 500 strutture sanitarie, dentisti, medici, case di riposo, guardie mediche, poliambulatori e centri prelievi. Il risultato? 77 denunce, 125 sanzioni per la somministrazione di farmaci scaduti, esercizio abusivo della professione sanitaria, truffa e frode in pubbliche forniture. In 4 strutture è stata sospesa l'attività. I controlli in una trentina di farmacie hanno portato alla denuncia di 21 persone per prescrizioni mediche false, prescrizioni di medicinali non a scopo terapeutico, truffa ai danni del servizio sanitario. I carabinieri di Feletto Umberto hanno denunciato per appropriazione indebita un 21enne dipendente di un supermercato di Reana del Royale. L'amministratore delegato di quella catena di negozi si era insospettito dalle numerose operazioni di reso, storno effettuate dal dipendente nel corso degli ultimi mesi, che qualora confermate avrebbero permesso allo stesso di intascare le somme di denaro in restituzione a una clientela in realtà fittizia. I militari, dopo aver ricevuto la querela, hanno predisposto un servizio di appostamento, impiegando anche personale in borghese, all'interno dell'esercizio commerciale e nel vicino parcheggio. Al termine del suo turno alla cassa, l'uomo è stato fermato dai carabinieri che hanno constatato l'effettiva presenza di una serie di operazioni anomale di reso, storno di prodotti alimentari per un valore complessivo di 850 euro. Sono in corso accertamenti per verificare quante operazioni di tale genere sono state effettivamente effettuate dal giovane, considerato che al momento è stato stimato un ammanco di circa 25.000 euro. Diamo uno sguardo al tempo, il cielo è sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, da poco nuvoloso a variabile montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 8 gradi e mezzo, a Udine 9 e mezzo, a Gorizia Pordenone 9, a Tolmezzo 5 gradi, a Forni di Sopra 2 e mezzo, a Tarvisio 2, a Piancavallo 1 grado e mezzo, a Sappada meno 4, sul Monte Lussari meno 2 e mezzo, sul Monte Zoncolan meno 4 e mezzo, a Lignano 9, a grado 8. Queste le previsioni, in giornata tempo in miglioramento con cielo sereno o poco nuvoloso, domani di notte e primo mattino cielo poco nuvoloso con gelate e possibili foschie o nebbie sulla bassa pianura, nel corso della giornata la nuvolosità aumenterà progressivamente con cielo che diventerà coperto prima di sera. Pintaudi, società specializzata nella produzione di prodotti da forno di alta qualità con sede a Trieste e controllata dalla holding Polo del Gusto presieduta da Riccardo Illi, ha annunciato che la società finanziaria della regione Friuli è entrata nel proprio capitale. L'accordo, definito un passo strategico nel percorso di crescita e di consolidamento industriale dell'azienda, ha un valore complessivo di 1.200.000 euro, di cui 700.000 sotto forma di finanziamento e 500 tramite aumento di capitale per una partecipazione del 35%. L'intervento mira a sostenere un programma di sviluppo e investimenti per soddisfare la crescente domanda dei prodotti Pintaudi, aumentando i volumi produttivi ma conservando le caratteristiche di una manifattura artigianale. Per Riccardo Illi, presidente del Polo del Gusto, l'ingresso di Friuli nel capitale è il risultato di un progetto industriale solido e credibile. Per Pintaudi si apre una nuova fase di sviluppo in continuità con il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni. Imprenditori immigrati, una realtà sempre più consolidata in regione, in particolare in alcuni settori, dalle costruzioni alla ristorazione, ma non solo. Ne abbiamo parlato nella nostra trasmissione del mattino. Buongiorno Regione. sembra un pianista di professione, Hussein, a tradirlo solo il grembiule da barbiere che indossa orgoglioso, il suo un mestiere che ha imparato in Libano, paese che ha lasciato ormai 15 anni fa alla volta di Trieste. E se è vero che un po' in tutto l'Occidente la barba è tornata di moda, è vero anche che tanti barbieri andati in pensione non hanno avuto ricambio generazionale, da qui la mancanza di manodopera. Partendo anche dal fatto che da noi esisteva abbastanza, no? Cioè esiste nelle culture, in tutto il Medio Oriente, perché comunque l'uomo ha più barba, ha più bisogno di farsi la barba, no? Di curarsi. La cura dell'uomo in Medio Oriente è sacra, dice Hussein, e infatti negli ultimi anni è esplosa la presenza di barbieri stranieri. Solo in zona Piazza Perugino a Trieste contiamo una decina di negozi. Il personale è tutto da Iran, Kurdistan, Siria. E infatti, secondo l'ufficio statistico della Camera di Commercio, sono 199 gli imprenditori stranieri che si occupano di servizi alla persona, cinesi in testa. A Trieste si contano 4.373 imprenditori stranieri, la nazionalità più presente serbi, montenegrini, il settore d'eccellenza, le costruzioni. Del resto, dice Antonio Paoletti, ospite a Buongiorno Regione, di stranieri abbiamo bisogno. Prima di tutto l'edilizia, poi sotto l'edilizia i servizi all'edilizia, per cui termini idraulici, tecnici, non parliamo del mondo artigiano, carrozzerie, falegnamerie, cioè c'è tutto un mondo ormai in mano a non triestini, extracomunitari, e noi ne abbiamo bisogno di questa gente. E rispetto alla conoscenza della lingua italiana? I corsi di italiano li fanno, la regione ha messo a disposizione strutture veramente importanti, questa regione funziona bene su questo aspetto della formazione, sia nelle lingue e poi sia nei mestieri. Sono accompagnati bene, chi ha volontà di fare è seguito bene in questa regione. Trieste, Navi Italiani, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport, il calcio. L'Udinese scenderà in campo stasera a Verona nel posticipo della 22esima giornata di Serie A. Per i bianconeri, sempre privi di Zaniolo, la sfida contro l'Hellas, ultima in classifica, mette in palio punti preziosi per non farsi risucchiare nel gruppone delle squadre che lottano per non retrocedere. Fischio d'inizio alle 20.45. Come l'anno scorso, l'obiettivo è migliorare. L'Udinese è esattamente lo stesso tabellino di marcia del campionato passato, dopo le prime 21 partite disputate. 26 punti, frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte. Sul fronte reti, 2 gol segnati in meno in questa Serie A, 22, e 1 subito in più, 33. L'occasione per ritornare ad andare su nell'altalena dei risultati, dopo aver raccolto un solo punto contro Pisa e Inter in casa, la offre la sfida esterna con l'Hellas, a quota 14 punti in una classifica che mette il tecnico Zanetti quasi con le spalle al muro. Anche perché il Verona ha perso tutte le ultime 3 gare disputate al Bentegodi. Rjunjajc dovrà rinunciare a Camara e soprattutto a Zaniolo, che oggi torna ad allenarsi dopo l'operazione al ginocchio. Potrebbe esserci con il Lecce fra 2 settimane, ma intanto i bianconeri devono fare bene da soli. Il motto lo conoscono in Friuli: maggior attenzione in difesa e magari anche all'interno dell'area di rigore, visto che l'Udinese è la squadra che ha subito più gol dal dischetto in questo campionato. E ritrovare negli ultimi 30 metri Arthur Attà con Kenan Davis, che sta disputando la sua miglior stagione di sempre in Italia. 6 gol, il doppio rispetto a quelli messi a referto nei 2 campionati precedenti. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Basket, in Serie A, Udine esce a testa alta dalla sfida contro la capolista Brescia, sfiorando l'impresa sul parquet ancora imbattuto dei Lombardi. 83-80 il finale. Se questo film pensate di averlo già visto, non avete tutti i torti. La tripla di Della Valle condanna ancora una volta Udine ad una sconfitta involata contro la capolista Brescia. Finisce 83-80 ed è un peccato dal punto di vista dei friulani, protagonisti di una partenza di grande energia, con Kristone Alibegovic in evidenza, che frutta un margine di 6 punti alla fine del primo periodo. Predominio bianconero anche in apertura di ripresa, il margine arriva a 10 punti, poi Brescia reagisce e riduce le distanze. Si va all'intervallo lungo sul 44-43 per i friulani. Udine torna avanti e con decisione nel terzo quarto, trascinata da Benzu Semekhovulu, e difende in maniera molto efficace. Il periodo si chiude su 68-63 per Udine, che sembra anzi poter controllare nell'ultima frazione, arrivando addirittura sul più 11. A quel punto Brescia mette in campo tutto il suo talento, Della Valle, alla fine miglior marcatore con 25 punti, guida la rimonta e la completa con la tripla di cui parlavamo in apertura. Il tentativo disperato sulla sirena di Kriston finisce sul ferro e poi fuori. A Udine il rimpianto di essersi ancora una volta sciolta sul più bello, ma anche la consapevolezza di aver giocato alla pari e per 35 minuti anche meglio della capolista. Sabato prossimo gli uomini di Vertemati tornano in campo contro Tortona. Andrea Bardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. In A2 invece Cividale ha battuto Verona per 80-74 dopo un tempo supplementare trascinata da un superlativo rotta. Sentiamo. Con Cividale lo si è imparato negli anni, meglio non chiedersi spiegazioni perché a volte si rischia di sconfinare nel misticismo. I Ducali, dopo averle suonata la favorita Brindisi, espugnano pure Verona e la sorpassano in classifica al secondo posto. Il tutto a 2 settimane dalla cessione del miglior marcatore e rimbalzista della squadra e all'essere andati a 1 centimetro dal salutare Lucio Redivo, autore di una prima parte di stagione sottotono. Il sindaco, pungolato nell'orgoglio, ha risposto in una settimana 69 punti di nuovo pericolo pubblico numero 1 e leadership ritrovata. E così la creatura di Pilastrini torna a fare paura. Dopo un primo tempo equilibrato, dove Cividale tira 1 su 12 da 3 contro il 3 su 15 della squadra di casa, improvvisamente la Gestecco ritrova la vena dalla lunga e rimane in scia. Merito di Redivo, ma anche della prova solida di Freeman e dell'apporto del nuovo arrivato Costi. Tiratore che a cavallo di terzo e quarto periodo mette 4 bombe di fila, 56-58. Verona si appoggia quasi esclusivamente all'asse Baldi Rossi McKee, che ha fatto le fortune di Cantù l'anno scorso. L'americano segna il 64-61 per l'Ate Zenis. L'impressione è che i friulani abbiano il fiato corto, invece Redivo mette un canestro dei suoi per il vantaggio a poco più di mezzo minuto dalla fine. Dopo i tiri liberi del pari di McKee, Cividale l'occasione per vincere. Marangon da sotto appoggia il tabellone, tiro forse sbagliato, ma l'interferenza di Poser è evidente. L'arbitro fischia, ma poi non convalide e si va così a supplementare, dove serve l'eroe. A mettersi il mantello è Capitan Rota, che sul 74-71 si inventa un canestro da 8 metri su un piede solo dopo una buonissima difesa veronese. L'azione dopo è ancora il playmaker di Portogruaro a concedere il bis con un arresto e tiro con morbido arcobaleno che spariglia le carte. 74-80, 26 punti per Redivo. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Il campione di ciclismo Paolo Bettini è stato ospite e ha volato in una missione addestrativa delle Frecce Tricolori. Bettini ha trascorso un'intera mattinata nella sede del gruppo addestramento acrobatico, vivendo nelle fasi di una giornata tipo, dal briefing mattutino sulle condizioni meteorologiche e funzionali dell'aeroporto di Rivolto, alle operazioni propedeutiche al volo, come la vestizione e la prova dell'equipaggiamento di sicurezza. Dopo aver ricevuto una spiegazione approfondita sulle procedure di sicurezza dei velivoli in dotazione alla PAN, ha preso parte al briefing prevolo e si è quindi imbarcato come passeggero sull'aereo del comandante Franco Paolo Marocco. L'attività di volo ha seguito un profilo addestrativo standard delle Frecce Tricolori, con una formazione ridotta di 4 velivoli che ha eseguito sul cielo di Rivolto le manovre del programma acrobatico della PAN. Il velivolo su cui era imbarcato Bettini ha effettuato alcune fasi di volo in posizione da capo formazione e altre come gregario, permettendo così al passeggero di vivere in prima persona le sensazioni del volo acrobatico delle Frecce da più punti di vista. Ed è tutto per questa seconda edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso, per la parte tecnica in regia Federico Comare e Bruno Montevecchi. Da parte di Daniele Lettig e di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.